古筝曲高山流水，清新淡雅。 二胡曲江河水，汹涌澎湃。 古琴曲流水，绕梁不绝。 水是美之源泉， 珍惜水资源，让美永驻人间。 带您遨游缤纷多彩的 CD 世界，带您畅享音乐的盛宴。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天7点19点播出 CD 博览。 欢迎收听 CD 博览，我是古月。今天为你带来的是 戴卡唱片公司发行的帕瓦罗蒂纪念经典专辑中的第二张 CD， 演唱曲目有《我的太阳》《重归苏联托》《神圣的夜》《甘露》《圣母颂》《黎明》《卡鲁索》《我的路》《桑塔露西亚》《你是我的欢乐》《妈妈》。 pazienti si essi surrange, lo profumo a così fino di toccare fedela. E tu dici, o pare d'addio, pienso a stupore di tu non te ne sta sempre a casa

Salta, gira, serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella, con la rossa, va seconda, con la sponda, fermo sta, viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, il più bel piacer del mondo, la più cara volontà, mamma mia, c'ha la luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, si salterà, fricche, fricche, fricche, fricche, fricche, fricche, mamma mia, si salterà, fricche, fricche, fricche, fricche, fricche, fricche, mamma mia. Dove il mare luce e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai,

what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much, much more. I did it. I did it my way. Yeah, there was a time I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up. Oh! le rose, ti dico tante cose, se il vento lieve t'accarezza, un profumar di giovinezza mi fa. Per la vita non ti lascio mai più.